vuoto è un senso perfetto. Impacca la mente. È un senso perfetto, intacca la mente. Il senso del vuoto. Intatta la mente, il senso del vuoto. Il senso perfetto. Il ponte è una mano che nessuno afferra. Nella nebbia che sale, si lancia nell'alto. E il presupposto consiste nella più assoluta certezza impossibile. Yeah. ti prendo mia sposa. Là, da dove tu nasci, è cosa impossibile, per questo siamo qui.